Siamo con Francesca Zanni e Beatrice Fazzi per parlare del loro spettacolo Cinque Donne del Sud, che sarà in scena a Roma al Teatro 7 dal 17 al 22 aprile. Ben trovate. Ciao, buongiorno. Ciao, ciao, siamo a Milano in questo momento. Bene, bene. Allora, partiamo dal testo. Francesca, ce ne parli, ce lo racconti? Azzardo, devo dire, perché cinque spettacoli in uno. Sono cinque personaggi, cinque donne completamente diverse, che parlano cinque lingue diverse, che abitano in cinque tempi e luoghi diversi, interpretati tutti quanti da Beatrice, ovviamente, e quindi è stato, insomma, molto impegnativo, ma anche molto divertente scriverlo. Sono queste cinque donne che attraversano quasi 150 anni della nostra storia. E quindi dal 1887 fino ad arrivare ad oggi, praticamente, cinque generazioni di madre in figlia che ci raccontano la loro vita, ma anche la vita di tutti noi, e quindi la storia che scorre alle loro spalle. Beatrice, come sei entrata nel progetto? Francesca di scrivere per me, l'ho incontrata una sera a teatro e era tempo che avevo desiderio di cimentarmi per la prima volta in un monologo da sola in scena perché non l'avevo mai fatto e da poco avevo anche iniziato a interpretare ruoli drammatici che in genere in Italia è difficile quando fai sempre l'attrice comica, poi ti mettono quasi un'etichetta. Io, avendo interpretato Melina, la cameriera di Nonno Libero, in Un medico in famiglia, ero destinata a fare la finta filippina per tutta la vita. Invece ho detto, allora, intanto so recitare anche in italiano e anche non soltanto in napoletano. E poi, insomma, è stata una sfida e non ho individuato in nessun altro qualcuno capace di entrare così profondamente anche nella mia storia personale. Io e Francesca ci conosciamo, ma era molto che non ci frequentavamo. E lei, con l'idea che ha avuto, è andata a toccare delle corde profondissime anche del mio vissuto, della storia della mia famiglia. Perché inizia tutto in un piccolo paese del Cilento, Rocca d'Aspide, e mia madre effettivamente ha origini proprio nell'entroterra del Cilento, quindi quel dialetto, quella lingua che inizialmente irrompe con questa donna piena di figli, è proprio una cosa che io avevo nel mio DNA, ma lei non poteva saperlo. E poi da lì mi ha traghettata attraverso tutte queste epoche e questi luoghi e io le sono andata dietro, a volte arrancando, devo dire, con una gran fatica, ascoltando parlare appunto persone di Milano, persone italo-americane, perché poi mi cimenterò in vari accenti. E, è stata una bella sfida, spero di essere riuscita a incarnare quello che lei prima ha visto. E poi ha tradotto nero su bianco. Francesca, da dove è partito tutto? Guarda, è partito in realtà proprio da questo incontro con Beatrice casuale una sera fuori da un teatro. Eravamo andati a vedere lo spettacolo di alcuni nostri colleghi, ci siamo riviste e inizialmente penso il progetto era proprio un altro, quando lei mi ha detto: "Ma io voglio scrivimi qualcosa, scrivimi qualcosa", ero partita proprio da un'altra idea completamente e poi invece proprio frequentando Beatrice e quindi parlando, a me piace molto quando scrivo proprio per un attore o per un'attrice entrare proprio nello specifico anche della persona. E quindi parlando mi è venuta in mente questa storia di queste donne, volevamo scrivere di donne, parlare di donne, parlare di come è cambiata la condizione anche della donna attraverso i secoli, attraverso il tempo. Quindi ovviamente di come tutte le battaglie, anche per l'emancipazione femminile, abbiano portato sicuramente molte cose buone, ma anche il rovescio della medaglia, cioè capire come è cambiato il rapporto con il rapporto di coppia, il rapporto con i figli, il rapporto con il lavoro. Quindi attraverso un linguaggio anche divertente, a volte molto spesso divertente, perché lo spettacolo è uno spettacolo leggero e divertente, però parla anche di temi che fanno molto riflettere, in cui tutti si possono riconoscere, anche gli uomini ovviamente, che vedono in scena le loro madri, le loro compagne e le loro figlie. Senti, come mai questa focalizzazione sud? Perché mi piaceva molto sfruttare le capacità di Beatrice e quindi iniziare proprio da questo dialetto anche molto difficile, perché all'inizio questo primo personaggio è una donna appunto di fine 800 che parla questo dialetto campano, cilentano, molto stretto, molto particolare, una specie di grammelò dove spesso non si capiscono le parole ma si capisce il senso, e quindi mi piaceva costruire questo personaggio qui per arrivare invece a un personaggio modernissimo che è appunto una ragazzina di 16 anni dei nostri giorni, quindi in cui magari noi della nostra età possiamo riconoscere le nostre figlie, le nostre nipoti o le figlie dei nostri amici, e però mi piaceva iniziare proprio da una lingua che Beatrice avesse, con cui Beatrice avesse confidenza, per poi arrivare appunto anche a cose completamente diverse, appunto la figlia degli immigrati italoamericani o la milanese degli anni 90. Beatrice, com'è stata l'interazione? Come avete lavorato nella messa in scena? Allora, io ho ricevuto i complimenti più belli che abbia mai avuto in tutta la mia carriera, e anche una grande soddisfazione perché Francesca mi ha sempre molto incoraggiata, è una regista meravigliosa, non è mai castrante, mortificante, anzi valorizza tutto quello che ha a disposizione, e ha fatto molto leva su certi aspetti del mio carattere, su un tipo di creatività abbastanza sregolata che ho. Io sono una persona molto disorganizzata, al contrario di lei, però lei è riuscita a farmi lavorare con grandissima serenità, addirittura dicendomi appunto di essere riuscita a interpretare esattamente tutto ciò che lei aveva visualizzato prima di chiedermi di fare certe cose, ma mi fa sudare, morire, saltare, ballare, cantare, piangere, ridere, partorire, scena, cioè, accade di tutto, ci vuole veramente un grande allenamento. Esatto. Non posso fumare, non posso bere durante tutto lo spettacolo, io devo essere una persona ligia, vado a dormire presto. E corre soprattutto per fare fiato, come Madonna durante... Però è molto molto bello, una bella sfida veramente. Francesca, ci dai dei riferimenti web per seguire proprio lo spettacolo e la vostra attività? E allora, guarda, sicuramente io sono un po' analogica, quindi mi fai una domanda che come se tu parlassi arabo. Però okay. Sicuramente Facebook, ovviamente, sulla mia pagina Facebook, che è Francesca Zanni, anche sulla pagina di Beatrice Fazzi, e poi le staffette, chiaramente, che è il nostro ufficio stampa, e quindi... Maria Luisa Giordano e Monica Menna sulla loro pagina Le Staffette, e ovviamente il Teatro Sette di Roma, dove noi appunto debutteremo, che ci sta tra l'altro abbiamo aggiunto due date straordinarie, perché il teatro è già sold out per tutta la settimana, quindi questa cosa ci gratifica molto e ci penserisce molto. Ci sono ancora posti disponibili per la replica straordinaria di domenica 22 alle ore 21, e qualcosa forse anche per sabato, ma durante la settimana, insomma, posticini sparsi, non per grandi gruppi, perché forse giovedì sera qualcosa. E anche sabato nella pomeridiana aggiunta. Sì, insomma, una grande soddisfazione, anche la risposta del pubblico. Il Teatro Sette è un teatro dove io abitualmente ogni anno comunque porto in scena qualcosa con le mie colleghe stremate, e il pubblico si è affezionato, quindi appena è stato proposto lo spettacolo di Francesca e mio in cartellone, hanno immediatamente gli abbonati acquistato i biglietti, e anche di questo siamo molto felici e molto grati. Allora, ricordiamo l'appuntamento con lo spettacolo 5 donne del Sud, scritto e diretto da Francesca Zanni, con Beatrice Fazzi in scena, al Teatro Sette a Roma dal 17 al 22 aprile. Beatrice e Francesca, un abbraccio, un in bocca al lupo e alla prossima!